fine la musica è molto una nota. Si è andato un pezzo grosso di Napoli, il nostro Jimi Hendrix. Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciocca. Napoli è una camminata, rende vita mia salata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore, mille paura, Napoli non solo amare, Napoli attorno al mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa morta, Napoli è una camminata, prendevi con mezza lata, Napoli è un sogno e a sangue tutto muta, Napoli mille colore.